Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno dall'elefante, 800 24 00 24. Noi oggi parleremo di una cosa abbastanza seria. Sulla scia del risultato elettorale mettiamo insieme il capo del partito di maggioranza relativa, il coordinatore Denis Verdini del PDL, Mario Segni, che è uno dei capi del comitato per il referendum, e la direttrice del Secolo, Flavia Perina, per discutere della prospettiva politica, perché ci sono i ballottaggi, c'è il referendum, insomma i fuochi della politica non si spengono con le elezioni europee, che anzi sono fatte spesso per spengere l'interesse per la politica. Però parlare delle cose serie non vuol dire dimenticare quelle meno serie, altrettanto importanti simbolicamente. Voglio dire, c'è stata una polemica su Gheddafi al Senato, e va bene, d'accordo, certo, sì, forse meglio di no, non lo so, boh, chissà. Quello che è sicuro è che al Senato è andato Beppe Grillo. A pesci in faccia lo avrebbero dovuto prendere, a calci nel sedere. Si è seduto in un'aula di Palazzo San Macuto, non so dove, la Commissione Affari Costituzionali, lì in Piazza del Parlamento, Beppe Grillo, a nome del popolo, perché ha presentato una qualunque proposta di legge che non so cosa voglia realizzare, e ha detto che le senatrici sono delle zoccole. Zoccole! Ma insomma, ma uno così, voglio dire, tu te lo tieni nel Senato della Repubblica a parlare? Ma dico, ma siamo pazzi? Ma insomma, ma le istituzioni una volta erano protette dalle vestali. Cioè erano, come dire, il concetto dell'istituzione era semidivino. Adesso non si può passare, diciamo, dalla semidivinità testimoniata, dalle vestigia del Campidoglio, al fatto che un comico va in Senato e dice che le senatrici sono delle zoccole. A pesci in faccia, a calci nel sedere avrebbe potuto prenderlo. È da lì che ricomincia, anche da gesti simbolici chiari, un sentimento della politica che abbia in sé qualcosa di serio, di profondo, di importante. Comunque, insomma, magari qualcuno non sarà d'accordo, però vi invito a esprimervi anche su questa questione. Linea a Deborah Rosciani per l'apertura della borsa, e poi con Denis Verdini, con Mariotto Segni e con la Flavia Perina, direttrice del Secolo, parleremo di ballottaggi, nuova tornata elettorale e soprattutto referendum, che è una questione controversa sulla quale ci sono stati spettacolari cambiamenti di linea e ci sono discussioni particolarmente acute nel PDL. Bene, 800 24 00 24. Denis Verdini, coordinatore del Popolo della Libertà. Lei oggi sul giornale, in un'intervista brillante, dice: abbiamo vinto. E siccome lei è uno dei pochissimi che legge i numeri delle elezioni, lei e Elisa Calessi, molto brava, che è stata qui con noi e che le ha commentate, effettivamente lo dimostra con l'aritmetica. Poi si può sempre discutere dei numeri, ma insomma siamo primi nelle 5 circoscrizioni europee, siamo primi in 16 regioni, insomma via, comprese le Marche e l'Umbria. Però il punto non è questo, la domanda gliela voglio fare insidiosa, caro Verdini, anche se siamo vecchi amici. Dunque, lei dice abbiamo vinto, ma allora perché avete subito dato a Bossi il referendum? Berlusconi aveva detto vado a votare, adesso ha detto ma non impegniamoci direttamente, è sembrato, come dire, mettersi dietro le spalle di un Bossi molto pimpante. Perché? No, non è così, non è così. Il Presidente del Consiglio è il capo del Popolo della Libertà, ma è anche il Presidente del Consiglio e il leader di questa coalizione. Quindi, da un punto di vista dell'interesse del nostro partito, è evidente che il referendum ci è favorevole, in quanto che... Lei andrà a votare? Sì, perché ne sono convinto da sempre, sono un... referendario ante litteram. E per il bipartitismo secco, che mi sembra la cosa più semplice, più moderna e più giusta per questo paese, per venire fuori da tutti i guai. Comunque, però, lei dice, il Presidente del Consiglio è capo di una coalizione, esatto, è stato prudente. È stato prudente, pur avendo interessi ovviamente, è stato prudente ed è l'unico che è capace di tenere insieme tutta questa, diciamo, tutta la coalizione. E quindi chiaramente ha chiesto al Popolo della Libertà di non fare una campagna divisiva, esatto, e di lasciare la libertà di coscienza. Perché c'è una cosa assurda, tra l'altro, che se Berlusconi avesse preso una posizione troppo pro-referendaria, la Lega minacciava di non andare ai ballottaggi, perché andando ai ballottaggi si rende più corposa l'ipotesi, certo, di raggiungere il quorum. Certo, certo, certo. E quindi il PDL avrebbe perso magari anche perché posizione. Sono 13 milioni di elettori, quelli che, se i numeri di elettori sono fondamentali, sono 13 milioni di elettori coloro che sono chiamati ai ballottaggi, quindi insomma è incidente. E giustamente dobbiamo preparare una strada con la Lega, perché noi abbiamo diritto a rendere più moderno e più semplice questo paese in tutto, però non possiamo neanche in questo percorso, come dire, uccidere il percorso altrui, essendo insieme in maggioranza. Certo. Secondo me le soluzioni ci sono, indipendentemente dalla... Per dare alla Lega delle assicurazioni sul fatto che ha un futuro, esatto, e una prospettiva, esatto, anche in un sistema elettorale riformato. Esatto. Per esempio con una confederazione di stampo tedesco, no? Fra, certo, i bavaresi. Certo. Quindi c'è, le soluzioni, certo, ci sono, non, come dire, non le abbiamo esaminate in questo momento, ma... Credo che sia anche interesse della Lega, come dire, proseguire. Intanto Guido da Roma dice che prenderà solo la terza scheda e non le prime due. Quali sono le prime due, Guido? Allora, le prime due schede sono quelle del maggioritario e io sono assolutamente in disaccordo con questo referendum, perché non ritengo che si debba dare il potere a chi potrebbe, per esempio, prendere soltanto il 26-27% dei voti e fare un governo col 55. Invece la terza scheda, di cui nessuno parla, è secondo me molto importante per attaccare in qualche modo i potentati politici, perché attualmente, l'abbiamo visto anche alle europee, i big si sono presentati in tutte le circoscrizioni e poi hanno rinunciato. Allora, chi ha votato per esempio Di Pietro o Berlusconi o anche Vendola, tutti i partiti l'hanno fatto, e pensando di mandarlo al Parlamento europeo, e poi invece quello ha scelto un altro circuito. Sì, e nella vecchia gergo politico si chiamano candidature di bandiera, insomma, sì, però poi dopo c'è un uomo suo, con il terzo referendum tutti i partiti dovranno per forza mettere nelle liste, trovare 26 capolista, cioè 26 persone che sono radicate nel territorio, certo, che, certo, porteranno, certo, questo. Quindi è l'inizio, forse l'unico referendum che potrebbe riportare... Va bene, Guido, giro la sua perplessità sul referendum a Mariotto Segni, nel senso che, onorevole Segni, molti percepiscono il referendum come un fattore di modernizzazione, di rivoluzione nel sistema politico e di consacrazione definitiva del maggioritario. Alcuni però su questa questione, che, perché è un fatto culturale, in Inghilterra si sa, la Thatcher ha governato anche col 36%, ma qui l'idea che uno possa governare se non ha tutto sommato una coalizione del 51%, 50 più 1% dei voti, è considerata una stravaganza e forse persino una prepotenza. Lei, che è il referendario per antonomasia, come risponde a questa obiezione, onorevole Segni? O si vuole il proporzionale o si vuole il maggioritario, la scelta è legittima. Se si vuole il proporzionale, per governare ci vuole il 51%, e non basta, in realtà, lo sappiamo. Ma se si sceglie invece la strada, che peraltro è di tutte le democrazie moderne, perché non c'è nessuna oggi che sia sostanzialmente proporzionale, beh, la strada è quella del maggioritario, cioè chi prende un voto più degli altri governa. Lei ha detto la Thatcher, Blair ha governato con 35% dei voti nelle ultime elezioni, questa è la storia delle grandi democrazie anglosassone, dove questo sistema spinge molte volte all'alternanza, spinge un partito a grandi successi e consente a un partito sconfitto con grandi sconfitte rapidamente di rifarsi e spesso di vincere in modo insperato, perché questo è il sale della democrazia, che chi vinca abbia tutte le responsabilità e chi perde invece di minare i pozzi e di cercare di fare manovrette per spaccare la maggioranza, si prepari a costruire l'alternativa seriamente e ci riesca. Adesso, come giudica, onorevole Segni, la posizione del presidente Berlusconi, che aveva detto io andrò a votare e adesso non ha detto non andrò a votare, però ha detto, insomma, direttamente il sostegno al referendum noi non lo diamo, cioè non facciamo una campagna elettorale referendaria perché insomma si è accordato con la Lega, via. Certo, l'ha detto Verdini in maniera molto soft e molto gentile, alle sue responsabilità di capo della coalizione del governo non deve spaccare. Naturalmente su questo braccio di ferro ha vinto Bossi, come voglio ricordare ha vinto Bossi nel momento in cui tanti, non solo noi, chiesero l'abbinamento il 6 o il 7, e col 6 o il 7, che sarebbe stata la cosa più logica, e fu Bossi a negarla, e Berlusconi disse: mi hanno minacciato la crisi di governo. Voglio dire, tra l'altro, adesso rispondendo anche al giovane che ha detto non ritirerò le due schede, voterò per la terza, lo ringrazio intanto perché capisce l'importanza della terza. Insomma, il referendum è una spinta a passare dalle coalizioni inevitabilmente rissose, lo stiamo vedendo la rissosità che aumenta dentro oggi il gruppo di maggioranza, non parliamo poi di quella che c'è con Di Pietro dall'altra parte, per spingere a forme invece più unitarie che tendano poi al bipartitismo alla fine. La strada, io sono convinto che è quella. Faccio l'esempio di quello che sarebbe il significato politico enorme di un referendum che vincesse, proprio per, guardando oggi, proprio alla maggioranza. È la cosa più visibile. Ma sai qual è la cosa più importante di tutte, Ferrara? Che Berlusconi e la Lega e Bossi sarebbero costretti a fare un programma comune. Guardi, non tanto le dico fosse una lista comune, quanto un programma comune. Ma lei pensa che cosa sarebbe di profondamente rivoluzionario? E nessuno potrebbe più dopo andare, nessun partito dal Presidente del Consiglio, senti, ma questo è il mio programma, io ho preso i voti su questi, ho preso impegni con gli elettori. Beh, onorevole Segni, però Prodi fece un programma comune, 220 pagine, no, eccetera, no, la no, più no, rissosa delle coalizioni, no, di tutta, ascolti, la storia. Prodi fece un programma comune che compendiava 13 programmi personali, ricordiamocelo, anzi voglio dire. Beh, ma anche un programma comune PDL compendierebbe le idee di Fini, le istanze di Bossi la grande corrente maggioritaria. Se la lista è comune, la lista si presenta con un solo programma, questo poi uno può fare quello che ma vuole. Ma con l'apparentamento è già comune la lista. No, ma sono due liste diverse, abbia pazienza. La coalizione di oggi sono liste diverse. Non nego che la soluzione da voi referendari proposta sia una soluzione ultramaggioritaria e di semplificazione, non lo nega nessuno, neanche chi non farà direttamente una campagna elettorale che considera divisiva, come l'onorevole Verdini. Roberto da Roma sulla storia di Grillo e poi sentiamo la Pirina. Roberto, lei dice il riassunto di Ferrara è di parte. Io non sono Giove Olimpo, sono gioviale, non cerco di non essere antipatico a tutti, ecco, almeno a qualcuno cerco di essere simpatico, ma come vuole che non sia di parte? Io lo detesto Grillo, è un qualunquista orrendo, a me piace la politica, i partiti, il Parlamento, le istituzioni, il Presidente della Repubblica, sono rispettoso del diritto di cittadinanza di tutti gli italiani, i quali si esprimono, si fanno rappresentare, devono non sputarsi e farsi sputare in faccia da un comico che va lì e dice le senatrici sono delle zoccole. Tra l'altro amo le donne, le rispetto e non gli do di zoccola. Direttore, che obiezione mi fa, Roberto? Posso? Sì, prego. Aiuto, lei è simpaticissimo. Grazie. Nessuno nega, è anche una persona molto amabile e garbata intellettualmente. Grazie. È pagante sentirla. Il punto è proprio un altro. Cioè, se lei mi fa questa premessa, chiunque dicesse il contrario di ciò che lei ha appena detto, o meglio, chiunque sostenesse le parole di Grillo, magari con delle argomentazioni logiche, diciamo, parirebbe contro le istituzioni. Io sono uno rispettoso delle istituzioni come lei. Che io ritengo che vada tributato rispetto senz'altro alla figura delle senatrici e alle donne in quanto tali, e il commento suo è corretto, però non bisogna che si annacqui il significato che c'è dietro l'atteggiamento di Grillo. Grillo ha un suo stile, un suo imprinting, e lui non ha voluto rinunciare evidentemente a quello stile perché ha ritenuto che un po' da pasquino rappresentasse un pensiero diffuso, e guardi che lo è diffuso tra gli italiani, che c'è un malcostume attraverso il quale si può oggi accedere in Parlamento. E sì, ma tutti hanno sempre, guardi, la Pompadour, tutti hanno sempre pensato che intorno al re ci sono solo cortigiane e zoccole, sempre, no, nella storia. Solo, guardi, sempre, persone, sempre, hanno tutti sempre pensato questo, e in parte mi perdoni, appunto, Ferrara, mi lasci dire la cosa, io le dico di più, che secondo me questo malcostume è trasversale. Perché quando si candida, pur di trascinare qualche voto in più, Luxuria, non voglio nulla contro Luxuria, diciamo un trans, la facciamo prima, o quando si candida Vladimir Luxuria è una bravissima persona, ha le sue tendenze, i suoi gusti, quando si candida al suo tempo Tony Negri, essendo un personaggio di bandiera, o quando Tony Negri non è una zoccola, magari poteva essere accusato di essere un violento. Sto dicendo che sono state candidature molto contestabili e contestate. Ora io le dico che sicuramente anche oggi la querela sulle veline è discutibile, però diciamo che se c'è stato tanto clamore intorno a quelle, forse va bene. La prendo come una critica, la prendo come una critica ragionevole. Flavia Perina, io non voglio farle delle domande come se lei fosse la portavoce di Fini, però lei è direttore del Secolo, che è un grande giornale della destra che fa battaglie in sintonia con quelle del presidente della Camera. Allora, sul referendum, che farete? Una campagna? Prego. Una piccolissima precisazione, perché io purtroppo su alcuni argomenti invece non sono affatto gioviale, cioè non riesco ad essere. Prego. L'evocazione della parola che voi avete pronunciato, e che io non voglio neanche pronunciare da donna, ma l'evocazione del termine che ha usato Beppe Grillo nei confronti delle donne in Senato è intollerabile. Una politica seria. Io mi stupisco anche che la Commissione Affari Costituzionali del Senato abbia proseguito l'audizione, perché io ritengo che si sarebbero dovuti alzare presidenti, parlamentari, senatori, personale, dipendenti, commesse, e uscire dalla stanza, perché è intollerabile che venga usato questo termine nei confronti di qualunque donna, qualunque sia il suo mestiere. Non riesco purtroppo a essere gioviale e neanche serena su questi temi, perché questo è un passo indietro per tutte le donne italiane, non soltanto per quelle che sono rappresentate in Parlamento, ma per tutte le donne italiane, quando si dà licenza di utilizzare questo termine inaudito nei confronti delle donne, tutto può succedere. Totale. Poi è inutile che ci andiamo a lamentare dello stalking, della violenza contro le donne, dei fenomeni di accanimento contro le giovani donne, se tolleriamo a una persona come Grillo di usare questi termini in un'aula parlamentare. Totale accordo, avevo aperto dicendo che bisogna prenderlo a pesci in faccia, ecco, meno gioviale di così. Scusi lo sfogo anche un po' accalorato, perché io sono proprio profondamente... Ma sono felice quando le persone si accalorano, perché danno il meglio di sé in genere, almeno qui alla radio. Riguardo al referendum, io sono convinta, convinto pienamente anche le parole di Verdini, anche questa prospettiva di un'idea confederativa con la Lega è sicuramente uno spunto da coltivare nella prossima fase politica, e credo che il referendum servirà anche a questo, perché al di là, diciamocelo chiaramente, è ovvio che il raggiungimento del quorum è fuori portata, forse un caso su un miliardo potrebbe verificarsi per un accidente della storia, ma questa seppur breve campagna referendaria, questi 15 giorni, daranno modo di fare quello che già si sta facendo, le dichiarazioni di voto, e quindi di evidenziare quanta parte della società italiana è favorevole a incardinare il bipolarismo in Italia. Io mi aspetto, già oggi il mio giornale fa un appello in questo senso, ad esempio alla Confindustria, che tutte le forze che da anni ci invitano alla modernizzazione e alla semplificazione del sistema si sbilancino, escano allo scoperto, dicano come voteranno e che voteranno, perché tutto questo sarà utile, questo comunque è un voto utile, avere, non so, ci sono 13 milioni di elettori che vanno ai ballottaggi, più ci sarà qualche milione di elettori, io immagino che andrà comunque a votare per il referendum anche laddove non si vota per le amministrative, avere qualche milione di sì sulla idea di incardinare il bipolarismo italiano, io trovo che sia comunque importante, sia un fatto straordinario e sarà un fatto di cui il Popolo della Libertà potrà avvantaggiarsi nella fase successiva. Bene, trasmetto dalla radio della Confindustria, quindi molto autorevolmente, il suo messaggio a Emma Marcegaglia e ai capi, diciamo, del padronato italiano. Oddio, si può dire padronato? No. No, sbagliato, scorretto. Industriali, semplifica anche questo, no? Semplifica anche il referendum. Bene. Bene, parliamo con Salvatore da Catania. Salvatore. Buongiorno, dottor Ferrara. Buongiorno. Io mi volevo permettere di dire che lei è un grande giornalismo italiano. Grazie. Non posso andare a pesca di complimenti. Molto, sinceramente. Grazie. Desideravo sapere, mi chiedevo una domanda. Volevo estenderla, mi facevo una domanda e volevo estenderla. Dico, ma il referendum di solito non hanno poi un seguito. Per esempio, uno degli ultimi è stato quello sulla responsabilità dei giudici. Mi pare che poi è finita in fondo alla sabbia il risultato di questo referendum. Quindi che votiamo a fare se poi non si tramuta? Se poi dopo non hanno un seguito. Grazie Salvatore. Ernesto da Milano. Ernesto. Pronto? Eccoci. Salve, senta, io volevo dire che il senso del voto, dell'andare a votare il referendum, prima di tutto, è dato dal fatto che questo referendum tende a liberare in genere l'azione di governo dai ricatti, perché noi abbiamo visto che questo, quando si è parlato di referendum, di fatto Berlusconi ha immediatamente dovuto dire che non poteva fare determinate scelte come l'accorpamento con le elezioni, perché era sottoposto al ricatto, certo, di una crisi. Il ricatto, sai, quando un partito chiede una cosa, più che un ricatto è l'esercizio di un diritto politico. Però, poi dopo... Sì, dica. No, l'unica cosa che volevo dire è questo, che in effetti ultimamente si dice che due grandi partiti che si riferiscano alla cultura cosiddetta del centrodestra e del centrosinistra non sono incompatibili nemmeno con sistemi puramente proporzionali. Questo è assolutamente vero, tuttavia la direzione nella quale il referendum vuole andare è proprio quella di ancorare quantomeno gli intenti degli uomini politici, dei soggetti politici, al programma con cui si presentano agli elettori, senza avere poi nei confronti del premier, del primo ministro, questa capacità di ricatto che poi è esterna, ha radici esterne all'azione di governo. Ho capito, grazie Ernesto. Sentiamo da Denis Verdini questa idea che dice si può sistemare il problema della Lega, che naturalmente non vuole diventare inessenziale nell'ambito della vittoria di un PDL come unico partito. No, oggi la Lega è apparentata, è importante, può contribuire alla decisione, ha ottenuto il federalismo fiscale anche facendo uno sforzo bipartisan, insomma ha una grande influenza politica su tutto lo spettro parlamentare, certo. E se passasse il referendum questo si ridurrebbe, ma c'è un modo per convincere la Lega che si può fare il maggioritario e anche lo spazio politico e sociale della Lega. Ammesso che il referendum, come mi sembra dalle dichiarazioni, difficilmente possa raggiungere il quorum, questo, e quindi diventa inefficace da un punto di vista giuridico, sì. Ma partendo dall'attuale legge che prevede il premio di maggioranza o alla lista o alla coalizione, mm-hmm. Quindi rimane aperto il problema anche dopo, certo. Anche dopo il referendum, perché già oggi la legge prevede che si possa fare ciò che si otterrebbe con la vittoria del referendum, cioè di andare da soli. Allora, siccome l'alleanza con la Lega non è un'alleanza, come qualcuno sento dire, ricattatoria e fibra, no, è un'alleanza forte che attraversa un territorio importantissimo come il Nord, e l'essenzialità della Lega l'ha dimostrato l'elezione 1996. Ricordo che nel 96 la Lega, certo, andò per da sola e prese il 10% come, certo, adesso, certo. Quindi insomma non è un fenomeno così, e vinse come... l'Ulivo, esatto, certo, esatto, quello fu la conseguenza. Quindi è ovvio che si debba trovare un percorso comune. Io per esempio vedo con la cosa più immediata e anche più giusta da un certo punto di vista per le comuni radici di molti nel Nord fra il centrodestra e la Lega, indipendentemente poi dal voto alle liste, di varare un modello come quello tedesco. Per i meno informati, in Germania c'è la CDU, che è il partito madre, certo, che si presenta dovunque tranne che in Baviera, dove si presenta la CSU, Cristiano Sociale. Esatto, sì. Esatto. E quindi il Nord sarebbe una riserva bavarese grande, importante, influente. Certo. Trovando la modalità di Però non è che lì si può presentare solo la Lega. No, se Berlusconi non si presenta a Milano, addio core. No. Partendo da questo modello che funziona in Germania da sempre, sì, funziona da sempre, con differenze molto forti fra le due, cioè origini comuni ma differenze forti, perché i bavaresi tutelano moltissimo la loro zona e la loro regione. Oppure, ancora meglio, potremmo andare al modello spagnolo, che garantisce, come garantisce di Spagna, la Catalogna, certo, quindi, i baschi, non è un grandissimo problema. Senta, onorevole Segni, che messaggio ha per gli italiani? Per cui abbiamo una telefonata da Torino di Maria Teresa, che è molto esplicita. Maria Teresa? Sento che lei è molto arrabbiata con gli italiani, nel caso non vadano a votare, però non è ancora detto, magari ci vanno a votare. Ma io voglio dire questo. Cioè, questa legge elettorale è una vera porcata. perché dice: tu, caro cittadino, non conti assolutamente nulla. Io, segretario del partito, ti candido chi voglio e tu, da bravo subito, mi metti la crocetta. Ora, il referendum è proprio un qualcosa di altamente democratico che coinvolge il cittadino. È questo che io dico. Sì, alcune persone dicono: ma se non andassero a votare come pare, che succede? Che cosa gli dice lei? Dico, se non vanno a votare vuol dire che democraticamente non hanno capito nulla. Perché questo è veramente lo strumento che hanno i cittadini per dire sì o no a questo potere politico, no? Io dico, dato che questa legge è stata definita porcellum, porcata, da chi l'ha proprio voluta, dico, questo è il momento in cui io, veramente, come cittadino, vado a votare. Farei di tutto per abrogarla. Bene, onorevole Segni, una tradizione azionista intendo dire laico-liberale molto minoritaria, dice che questo è un paese alle vongole, cioè un paese che si macchia, si fa le patacche, una specie di commedia dell'arte dove ognuno fa il suo comodo, il suo particolare, eccetera, e non ha senso civico, senso della nazione, senso della politica alta. Allora, mi ricordo che una volta il barone Compagna, Francesco Compagna, disse: sì, non ho nessuna esitazione a dire che gli elettori, allora la questione era gli elettori neofascisti dell'MSI, sono dei fregnoni, degli stupidi, non so, li insultò. Lei, oltre a dire agli italiani venite a votare, c'è una grande occasione, nel caso non ci vadano, c'è qualcosa di dissuasivo, di duro, di deterrente, da davvero balente sardo da dirgli? Ma guarda, io dico quello che ha detto la signorina di Torino, che ringrazio molto. Cominciamo col ricordare una cosa, perché poi rischiamo di perderci altrimenti con tutte le teorie politiche giustissime. Intanto, questo è il referendum contro la legge porcata, la legge che Calderoni, guardi, a proposito di istituzioni, Ferrara, io non chiamerei mai una legge dello Stato porcata, sono stato abituato a rispettare lo Stato, ma l'ha chiamata il suo ministro, a questo punto sono autorizzato. Ora è l'unica occasione che si presenta in anni e anni futuri di dare una mazzata, una martellata, una picconata, avrebbe detto così, a uno dei peggiori regali che ci abbia fatto la partitocrazia. Dopodiché, con tutta la fiducia che posso avere nei capi partito e questa, ma chi ce lo viene a raccontare che ce la toglieranno di mezzo questa legge? Ma stiamo scherzando, ma questa c'è già da più di 3 anni, c'è stata fatta da un governo di destra, ci sono stati due anni di governo di centrosinistra, è tornato il governo di centrodestra e non c'è stato un cane, Ferrara, un cane che abbia provato a cambiarla, perché diciamo la verità, questa legge va bene a tutti, o se non a tutti, a quasi tutti, perché con questa legge qualunque capo partito mette l'ultimo portaborse in Parlamento e il Parlamento sta morendo. Provi ad andare in giro a chiedere alla gente questo se è vero, sta, questo è vero, se questo sta è un problema, secondo deputato. Me lo porrò anche a Verdini, perché questo è un problema serio. Ora, se del paese, mazzata, il Parlamento non conta più, se si non capisce. C'è una mazzata referendaria, prima una... contava troppo, secondo sì, me. Sì, però ascolti, bisognerebbe fare una riforma. Ho visto uno studio che stanno per pubblicare, anticipo un dato che mi ha colpito. Sa qual è il rapporto tra leggi di iniziativa parlamentare, non popolare, e governativa, che negli anni, anni 80-90 era grossomodo pari, adesso è 40-1, cioè leggi parlamentari se ne approva una ogni 40 disegni di legge governativa. È un Parlamento morto, è un Parlamento nominato. A questo punto devo sentire la Perina, perché la Perina è, diciamo, appunto, dà spesso voce con i suoi commenti, con la cultura espressa dal suo giornale, a quella tendenza filo parlamentare incarnata oggi fondamentalmente da Gianfranco Fini. Un attimo solo, sentiamo la Perina. No, io non ha sentito il dato di Segni? Sì, l'ho sentito, ma io non condivido questo appello alle urne che, in nome dell'antipolitica, in qualche modo. No. Ma non è antipolitica, scusi, questo è per rilanciare la politica. Scusi, sì, no, Ferrara, mi fa parlare un attimo, scusi. L'antipolitica la sta facendo e l'ha fatta chi ha ammazzato il Parlamento. Noi vogliamo rilanciare il Parlamento e quindi la politica. Ma perché siamo antipolitici? Vogliamo ridare i poteri ai cittadini e al Parlamento. Che c'è di antipolitica? Grido di dolore dell'onorevole Segni. Non vorrei trovarmi a litigare con Segni, io voterò sì al referendum e voterò contro, ma è la cosa più politica che e farò anche nel mio piccolo propaganda per questo referendum. Se mi fa concludere, prego, il concetto, prego. Ecco, trovo delle difficoltà a identificarmi in quest'idea di legge porcata, Parlamento. Il Parlamento, quando diciamo ha voluto esprimersi in qualche modo, anche con posizioni, io ricordo, che ne so, la lettera dei 100 contro la proposta sui cosiddetti medici spia, no? C'è stata una lettera di 100 300 parlamentari che ha in qualche modo modificato anche il dibattito politico. Ma quanti ce ne sono stati questa, diciamo, denigrazione dell'attuale Parlamento, secondo me è sbagliata, perché esistono anche in Parlamento le energie per fare iniziativa politica, esistono figure di parlamentari coraggiosi che si espongono su tante cose, e non vorrei dipingere questo Parlamento come se fosse appunto l'esito di una legge porcata. Tra l'altro, anche sul tema delle preferenze, io ho sempre invitato alla massima cautela. Io personalmente, ad esempio, sono una eletta della legge porcata, non sarei stata mai eletta in un Parlamento preferenziale, perché non ho né i soldi né probabilmente anche le attitudini per andarmi a cercare preferenze. Gli ebrei chiamano la chutzpah, la faccia tosta per proporsi, sicuramente, certo, perché infatti lei è famosa politica per essere timida, ma non certo, sembra da per questa ho fatto politica per 35 anni e non ho mai avuto un incarico, diciamo, pubblico elettivo, manco in circoscrizione. Posso fare un rilievo? Solo. Prego, onorevole Segni, no, poi c'è Verdini, carità, che pretende anche lui la sua quota. Mi fate chiudere soltanto un ragionamento? Sì. Allora, chiuda la perina, che poi devo dare le strade in diretta e poi ci riscontriamo subito dopo. Il pronunciamento sul referendum è una grande opportunità politica, perché costituisce comunque un segnale nella direzione del bipolarismo. Penso che sia sbagliato mischiarlo con le polemiche sulla legge porcata, perché qua il traguardo, la prospettiva che si dovrebbe difendere in questa brevissima campagna referendaria è l'idea di incardinare il bipolarismo italiano, più che l'idea di agire su meccanismi che si riformano soltanto con una seria riforma istituzionale. Non è una legge elettorale che ci farà cambiare lo status della democrazia italiana, quello può farlo soltanto una vera riforma costituzionale. Eccoci qui, trasmissione in chiusura, Luigi da Milano, rapidissimo, Luigi. Sì, buongiorno Ferrara, buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Ma la domanda che mi facevo io è, se vinciamo il referendum, e io comunque mi ricordo di referendum come finanziamento pubblico ai partiti, che poi è stato tradito, sì, quindi non ho nessuna certezza che vincendo il referendum poi il Parlamento... Ma non sono più finanziamenti, si chiamano rimborsi. Esatto. E c'è una grossa differenza. C'è una grossissima differenza. Ma io mi chiedo qual è la democrazia di questi partiti, in particolare di tutti, ma in particolare di questo partito nuovo, la Rising Star delle elezioni europee, il partito l'Italia dei Valori. Qual è il livello di democrazia di questi partiti? Il Partito Democratico, credo, non abbia nemmeno uno statuto. Guardi, io sono un iscritto radicale, e so, spero che ciò non la schifi troppo, Ferrara. No, perché mai? Scherza. Ho questa impressione, ma lasciamo perdere. Sono un po' malinconico per come stanno andando le cose per i radicali. Un po' malinconico, ma credo che ci sia un po' da guardare alla democrazia interna dei partiti. Vabbè, no, la sua obiezione ha un suo senso, naturalmente, non c'è dubbio su questo. Anche se non mi pare che sia proprio il centro, il cuore del problema. Comunque adesso noi andremo a questo benedetto referendum, facciamo un po' di previsioni. Onorevole Segni, è proprio escluso che ci sia il quorum? Ma guarda, io non darei per morto nulla. È difficile, l'ho sempre saputo dalla prima. È difficile perché è stato spostato al 21, cioè la campagna elettorale sarà brevissima, c'è un'informazione voluta da una casta partitocratica, questa è la verità, che parla il meno possibile il referendum. Le faccio un esempio: solo avantieri Ballarò era stata la prima e l'unica dei grandi talk show che abbia parlato del referendum, quindi insomma, questa è una però cosa io dico assurda. Una cosa, scusi, io sono un po' stufo di queste battaglie donchisciottesche fatte dai vostri comitati, quando sono giuste, quando sono sbagliate, lasciamo stare. Sono però battaglie di esercizio di un diritto costituzionale. Ma perché non possiamo avere un sistema come in America, in cui la gente è chiamata alla responsabilità? Cioè, per esempio, si devono poter fare gli spot politici in televisione. Togliergli è stata una cosa gravissima di violazione dei diritti della società civile. Lei oggi dovrebbe andare in Confindustria, dovrebbe andare da tutte le persone che vogliono semplificazione, modernizzazione, riforma, dirgli datemi i soldi, e se raccogliesse un sacco di soldi e facesse una bella campagna di spot, il quorum lo prenderebbe. Ferrara, ma lo dice a me. No, lo dico a lei. Secondo me lei ha votato per la par condicio. Sì, ho votato per la parte malissimo. In quel momento era dispari la condizione, allora era meglio pari, ma io sono per un sistema aperto, apertissimo. Aspettiamola con queste cose qua. Certo, sono, non sono per un controllo dell'informazione eccessivo come c'era e c'è in quel momento, ma lasciamo perdere questo punto qua. Sono apertissimo. Convinca lei la Confindustria a darmi i soldi a fare questa campagna, la faccio immediatamente. E non ma si può fare, dovete mettere dei manifesti, ma non c'avete la possibilità di fare gli spot. Lì campagne politiche. Sa quanto ha speso Obama per diventare presidente degli Stati Uniti? Lo so. È 500 milioni di dollari, cioè sono mille miliardi di lire, vecchie lire. Allora, non è Obama è l'uomo del sogno, c'ha il BlackBerry, va a ballare con la moglie, va a Broadway, Ferrara, cioè, è un dio. Come la lascio parlare? Ferrara, mi lasci parlare. Sì, ma lei non parli quando io la interrompo. Posso parlare? Ma è un paradosso, naturalmente. Posso parlare? Vada. Benissimo. Allora, ci sono due grandi e altre più piccole forze di informazione che convincono tutta l'Italia par condicio o non par condicio. Una si chiama la RAI, l'altra si chiama la Fininvest. Chi ha una di queste due o ha due terzi di queste due parla tutta l'Italia, par condicio o non par condicio. Chi non ce l'ha non parla. Noi siamo fuori e abbiamo grande fatica. Questa è la verità. Non stia a dire tutte queste cose sulla par condicio. Non è la par condicio, come è no? I vertici RAI che condizionati dai partiti non vogliono parlare di quello che fa scomodo. E quindi non vogliono parlare di referendum. Ma sono noiose quelle trasmissioni. Finché la RAI sarà così non ne parlerà. Adesso è lei che mi sta interrompendo. Senta l'obiezione di Verdini. Scusa. Ma sì, sono noiose queste trasmissioni. Ha ragione. E la par condicio è un modo. Ma toglietela, a me basta che ecco. La par condicio è un modo per rendere piatto tutto e di rendere impossibile la nascita di una cosa nuova. Certo, quando se viene tolta può favorire momentaneamente chi c'è, ma è anche uno strumento, come dire, di repressione di tutte le idee. Ma è talmente ragione, evidente, Vestini, è talmente evidente. Una cosa, par condicio o non par condicio? Chi ha le televisioni in pugno, beato lui, ma non no, lo sto criticando, prendono i soldi, parla di quello che vuole. Ma no, vendono gli spazi. Non ci fa niente con le televisioni. Vendono gli spazi, al massimo lo fanno vedere con più capelli di quelli che c'ha, ma non è che ci fa granché con alla rovescio. Perché c'è la par condicio? Comunque, mi lasciate parlare il referendum. Ma no, senta, non dica mi lasciate parlare perché questa è la pannellizzazione di segni. La smetta di non abbiamo fatto altro che lasciarla parlare. E che fa? Si mette la stella gialla. Pure lei mi costringe a parlare in par condicio, a me non so, voglio parlare, ma no, la costringo perché scusi, io pure non è che sono proprio un cretino che sta qui a dirigere il traffico. Se trovo un bel argomento che la mette un po' in difficoltà, il fatto che lei ha votato per la par condicio e oggi invece con una bella raccolta di fondi potrebbe fare una straordinaria campagna referendaria, glielo oppongo. Che devo fare? Guardi che la racconta. Completi il suo pensiero e concluda la trasmissione. Baci alla Perina. Posso parlare del referendum e non intendo parlare di par condicio. Ma parli di quello che vuole. Questo me lo permette? Certo. Benissimo. Allora, questo referendum è un'occasione data agli italiani per dare una spallata e per dare un segno fortissimo alla politica. Io ho sentito alcuni, un paio, che hanno detto ma il referendum non, poi vengono rimangiati, vengono scippati. È verissimo, è capitato in alcuni casi. Ma non dimentichiamoci che la storia italiana è stata fatta in gran parte dai referendum, che hanno lasciato una sorta indelebile al divorzio, all'aborto, ai primi referendum. Ah, mi meraviglio di lei, come l'aborto? L'aborto lei spero sia contrario. Io sono d'accordo, ma che c'entra? Però è stato un referendum che ha cambiato la storia italiana. Neanche sul nucleare ero d'accordo, però era cambiata. Voglio dire, i referendum incidono, certo. I referendum sono una cosa fondamentale. Un referendum che vince il 21 e il 22, ma ve li immaginate i titoli il giorno dopo? Smantellata la legge Calderoni, cambia tutto, veramente sarebbe una forza enorme nella politica italiana. E poi c'è qui una cosa che hanno detto sia Verdini sia la deputatessa, a parte il Parlamento. È verissimo, è sempre in gioco in Italia il sistema bipolare e io spero un giorno bipartitico. Attenzione che il desiderio di tornare indietro dentro tutti e due gli schieramenti è forte, anche se qualche volta è palese. È solo Casini che lo dice apertamente, ma sappiamo bene che da una parte e dall'altra c'è chi è desideroso, legittimamente per carità, di tornare alla Prima Repubblica, ma chi come me invece spera di traghettare definitivamente in un sistema, diciamo, anglosassone, seconda, terza, quarta Repubblica, quella che sia, Beh, si ricordi che il 21 ha un'arma in pugno. Bene, grazie onorevole Segni, grazie a Flavia Perina, grazie all'onorevole Verdini. Grillo è una grandissima zoccola. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleone e Giorgio Matè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Baci.